English Bit di Giulia Crivelli. Sight. Rome's mangy Christmas tree is a sorry sight. It has clearly been traumatized. L'albero di Natale spelacchiato, mangy, di Roma è una triste visione. È stato chiaramente traumatizzato. La corrispondente da Roma del New York Times, Elisabetta Povoledo, si è occupata dell'albero di Natale che i romani hanno soprannominato spelacchio. La parola che ci interessa però è sight, che possiamo tradurre innanzitutto con vista. She has a very good sight, ci vede molto bene. The disease has affected her sight, la malattia ha avuto effetti negativi sulla sua vista. He has very little sight in his right eye, vede molto poco dal suo occhio destro. After 10 days at sea, we had our first sight of land. Dopo 10 giorni in mare aperto, vedemmo per la prima volta la terraferma, diciamo in italiano. I have been known to faint at the sight of blood. Tutti sanno che svengo alla vista del sangue. Per tornare all'uso di sight fatto dal New York Times, he was a sorry sight, soaked to the skin and shivering. Era davvero una visione che metteva tristezza, come spelacchio, bagnato fino all'osso, alla pelle letteralmente in inglese, e scosso da tremori. To shiver significa tremare. Un altro significato di sight è panorama. It's a spectacular sight as the flamingos lift into the air. È uno spettacolo fantastico vedere i fenicotteri che si alzano in volo. We're going to Paris for the week to see the sights. La prossima settimana andiamo a Parigi per vedere le attrazioni principali. Tra le espressioni idiomatiche, at first sight, a prima vista. It was love at first sight. Fu amore a prima vista, proprio come in italiano. At first sight, it may look like a generous offer, but always read the small print. A una prima occhiata, lettura, è un'offerta generosa, ma è sempre meglio leggere le clausole a margine, the small print. To set sights. She's set her sights on getting into Harvard. Si è messa nell'ottica di entrare a Harvard. We must not lose sight of our primary goal. Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo principale. Sightseeing, infine, è l'equivalente di giro turistico. Did you have a chance to do any sightseeing around town? Hai avuto modo di fare un giro per la città? Come sostantivo esiste anche sightseer, letteralmente colui che guarda i monumenti, i siti turistici. Rome attracts large numbers of sightseers. Roma attrae moltissimi turisti, nonostante spelacchio, potremmo dire.